plaga d'un gran mare morto, color del bronzo e di un cielo rosso, sì come sangue d'un rosso livido. E una gran spiaggia morta di grigio nero. Una fanciulla giaceva viadagiata, parti di mitra, forse capì. Il dottore!